iniziare a farvi sentire questa canzone che ho imparato un po' di tempo fa, ho fatto a modo mio e tradotto più o meno in romano di un cantautore eccezionale che si chiama Matteo Salvatore, che è un cantautore pugliese morto una ventina d'anni fa. E ho sentito questa canzone una volta in una cucina, fumato a Livorno, me ne sono innamorato, è un capolavoro, si chiama La notte è bella. È la canzone più notturna che io abbia mai sentito scritta in lingua italiana, anche se in realtà era scritta in un dialetto pugliese incomprensibile, che lui stesso diceva che non capivano neanche a Bari. E avevo pensato che qua era figo farla. Stasera volevo passare al volo da questa cosa di Matteo Salvatore, che si può cantare solo in un uliveto, è sbagliato farla forse con l'amplificazione, ma a fare un tributo folle, cioè vorrei fare probabilmente addirittura, è possibile, quattro brani di seguito di un autore americano, californiano, che io amo da quando sono bambino all'infinito, perché ieri era il compleanno. Si chiama David Crosby, un super hippie. Sono canzoni che parlano di sesso a tre, stare fuori dalla civiltà. Insomma, sono canzoni secondo me adatte a questa situazione qua, ovviamente in lingua inglese, però comunque chi se ne frega, tanto quella, diciamo, dovrebbero arrivare comunque, io provo a farle arrivare comunque, per la prima volta tutte e quattro di seguito, quindi entro proprio nella trasformazione io David Crosby. Che... questa iper tranquilla che si chiama The Lee Shore, canzone super hippie, lui che sta su questa spiaggia, si sveglia la mattina, fa una passeggiata, vede una conchiglia antica che brilla sulla sabbia, si fa un tuffo nel mare, gli dicono che la prossima isola abitata a distanza di migliaia di chissà quante miglia sta verso il Venezuela, sono passati dei marinai in giornata, però poi dopo non può più stare lì a parlare con chi sta parlando, perché deve tornare sulla sua casa galleggiante dove ci sono le donne che lo aspettano e gli hanno preparato la cena e deve continuare a raccontare le sue storie. Questa è l'immagine che lui descrive praticamente mentre c'è la guerra in Vietnam. Bellissimo, eh? Impossibile da fare. Da da da da. Quest'altra è, si trova in una versione mostruosa che, diciamo, chi di voi conosce può apprezzare il coraggio di farlo io, perché quello in quel momento c'è una voce, una interpretazione mostruosa. Questa e quell'altra si trova nel disco Fourth Way Street di Crosby, Stills, Nash & Young, un grande disco doppio dal vivo degli anni 70, super bello, che ha un lato tutto acustico e un lato tutto elettrico. Vi consiglio di ascoltare chi di voi già lo conosce. E questa qui era quella che gli avevano censurato con i Birds, gli avevano impedito di pubblicare con il gruppo The Birds, che era un gruppo molto famoso in America, tipo Beatles in quegli anni lì, perché parlava appunto di tre che si amano. Allora lui la riesce a fare e pubblicare in questo disco dal vivo, si chiama Triad. Viene a Roma a settembre, c'ha 70 anni, spacca i culi. Something new. crazy too. L'ho tagliata, ho levato la strofa quella della madre che si incazza. Grande, bravo. C'era bisogno ormai. Oggi la madre fa, vabbè, ma basta che state bene. L'importante è che ci avete i soldi. Invece quest'altra, non scherzavo, cioè voglio fare queste quattro de Crosby, voi abbiate pazienza. Quest'altra è veramente bellissima, sta nel... Questa, diciamo, mi ha convinto a spostarmi da Roma alla campagna già molto prima di sapere che l'avrebbe fatto, perché è una canzone che sta nel disco solista che lui fa nel 70, bellissimo, e si chiama Traction in the Rain. City day without thinking about getting there. Dedicato a David Crosby per il suo compleanno, forse sì. Questo bellissimo, più tardivo, diciamo, dopo il fallimento della zona hippie, con quella sensazione che quel sogno era andato, lui è stato uno che ci ha preso proprio la mazzata, nel senso poi negli anni successivi si è ripreso a malapena. Ancora oggi sta incazzatissimo, pensate, si trova Trump. E questo è un brano di, così diciamo, disillusione, della fine anni 70, che si chiama Bittersweet. On the one side, two towers like a cliff, on the other side, love dangles by a thread, and here is a climber who cannot find his eyes, and a falling woman wishing she was there. Crosby, auguri David. Dai David. Adesso sono fottuto perché ho fatto un sbagliatissimo, perché con questi due maestri all'inizio praticamente non posso più fare niente, cioè il concerto è finito, è stato veramente bello stare qui questa sera. Non ridono neanche. Speravo che ci fosse una situazione di solidarietà in questo caso, invece niente. Ci sono le zanzare. Tu dici che questo influisce. Sei troppo bravo! Grazie caro, però è quella cannetta. Questa cannetta è passata, spero, così tutti quanti poi condividono questa opinione. È arrivata qui. Ci vuole un po' di battaglia e un po' di cannetta. Era per questo che in quegli anni lì funzionava la rivoluzione, perché c'era un po' di battaglia e un po' di cannetta. Invece adesso è diventata solo battaglia da una parte e dall'altra cocaina e sei fottuto. La birra, ti ha portato la birra. No. La birra, ricordate. Dov'è? Eccola. Salute! Salute ragazzi. Viva! Ok, adesso faccio delle canzoni mie. Sono quelle che faccio sempre, quindi i miei amici possono anche alzarsi e andarsene. Ciao Filippo. Vuoto. tranne lui che effettivamente non conoscevo, che non a caso è anche stato il più simpatico, perché gli amici sono sempre cattivi. Questa è una canzone sempre scritta sotto l'influenza della marijuana, quindi io stesso non comprendo il testo, lo dico sempre alla gente perché giustamente altrimenti dicono, ma soprattutto in che senso? Cioè solo alla fine si capisce più o meno che è la decisione appunto di abbandonare, diciamo, lo stress cittadino. Cioè in realtà proprio no, c'è una prima strofa che è sulla sensazione, lo spaesamento, l'ho ricostruito dopo, perché praticamente stavo sul divano, mi ricordo ancora, stavo sul divano veramente a causa di una skunk una decina di anni fa, forse un po' di più. Io praticamente sto a casa con la chitarra tipo adesso, con delle visioni tipo adesso, solo che adesso è reale. E ho scritto questa cosa. La prima, penso di aver capito più o meno che la prima strofa è una specie di sensazione, dico, ma dove cazzo, ma che cazzo sto facendo io nella mia vita, ma dove sono? La seconda strofa, che tuttora io tento ogni tanto di rileggere da lucido e tentare di capire, ma non è che ci riesco benissimo, è qualcosa che ha a che fare sull'identità, è una specie di spostamento di identità, una situazione sull'identità che ancora non ho capito bene, però era fica, funzionava, l'ho lasciata. Nessuno si è mai lamentato quando ho fatto il pezzo, tutti quanti hanno soprasseduto, cioè hanno fatto tipo, vabbè, sta seconda strofa, se l'ha scritta lo saprà lui che cosa significa, io non lo so, questo vi volevo dire, non lo so bene. E la terza invece è una strofa, diciamo, come dire, in cui la situazione è meglio che te ne vai in campagna, perché se no qua, vabbè, e si chiama Il tempo necessario. La stazione partiva mentre il treno restava, ogni volta che vedo le valigie passare mi ricordo di avere qualche cosa da fare e mi dico, ricordati di ricordare, mentre loro si spostano e le guardo andare, mentre loro si spostano e le guardo andare, la la la la la la la la la la la la la la. Racconti di un nome che una volta chiamavi e che io rispondevo. Quando tu lo chiamavi, a che nome rispondi? Se non vuoi che ti chiami, se mi dici, ricordati di ricordare. Quando i nomi si spostano e li lasci andare. Quando i nomi si spostano e li lasci andare. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hai bisogno di tempo, hai bisogno di mare, di una nuova metropoli a energia solare, di una porta di casa che non si chiude a chiave, del profumo dell'erba, del respiro di un cane, dove i giorni si scordano e ti lasciano andare, dove i giorni si scordano e ti lasciano andare. Grazie. ragazzi. Stasera stavo a capire, c'è stato un momento che stavo a capire. Mentre la facevo. Vorrei provare a recuperare la tragica esperienza di questo brano che ho fatto l'altra sera, e aggredito da il gelo delle persone presenti, mi è venuto veramente una merda. Perché i concerti vengono fatti, e non è retorica, lo posso dire, perché tanto, come dire, vendo talmente, cioè è talmente assente dalla questione economica la mia attività di artista. E la mia, e posso credo che possa essere testimoniato, basta andare su, diciamo, su internet, sui giornali, nell'arco dei precedenti 25 anni la mia attitudine promozionale è talmente sotto lo zero in questa epoca in cui ci si promuove anche la propria festa di compleanno con il proprio amico che è presente lì alla festa di compleanno col telefono, per cui posso veramente dire che, come dire, non me ne frega un cazzo di leccare il culo alla gente che mi sta ascoltando, però il concerto è veramente fatto dal pubblico, cioè questo è il problema della musica italiana o mondiale contemporanea, il pubblico, cioè nel senso non è tipo però non c'è più musica buona, non è vero, la musica buona ci sarà sempre, almeno finché esisteranno le cicale, però diciamo il pubblico fa la musica, perché quando tu senti che c'è un pubblico che ascolta, suoni bene, ti diverti, provi a fare la cosa, rischi, ti butti, ma non c'è sta un pubblico di gente annoiata, incazzata, che non vuole stare là, che sta male, che ha bisogno di sentirsi continuamente compiaciuta, cioè abituata a essere compiaciuta continuamente dall'artista saltimbanco di merda che sta lì. Cioè praticamente è chiaro che non è difficilissimo suonare, è per questo che io non suono quasi più, però in questa situazione sono contento abbastanza di suonare, devo dire, perché non so perché ho fatto questo scherzo. E questo è un pezzo sempre a me stesso oscuro, che ho incluso nell'ultimo album che ho fatto, che per fortuna io qui non ho e quindi non posso vendere, e quindi lo posso dire serenamente, perché la mia domanda è sempre, quando uno parla dei propri pezzi, per vendere è sincero? Io non lo vendo, andatevela a sentire su internet gratis. Oppure lo pagate 2000 euro, mi date 2000 euro per un album. Dopo la cannetta. Esatto, dopo la cannetta forse vi strappo. Magari dico, perché ti faccio una produzione apposta? Perché è un'altra cosa che tra musicisti nei momenti di disastri ci eravamo detti, bisognerebbe fare le canzoni come i pittori, cioè tipo uno te paga 1000 euro, tu gli fai una canzone per lui, lui ti dà tutti gli a cose tipo sono stato innamorato di questa ragazza quando ero giovane, mia zia mi ha fatto sempre incazzare, una stronza, scrivila, si chiama Giovanna, eccetera, e tu fai la canzone per questo, gliela produci, gliela componi, gliela consegni, lui c'ha la canzone personalizzata, se sei bravo, la canzone per lui, secondo me ci guadagni di più che fai dischi. Comunque ancora non l'ho fatto, però se domani leggete da qualche parte canzoni personalizzate, sponsorizzate, so io. Questa si chiama I tuoi sì sono scale al buio, mo stasera provo a redimerla, perché le canzoni sono come gli incidenti che cadi da cavallo, cioè nel senso l'altra sera veramente io ho detto vabbè fammi la prova a fa, l'ho fatta, è stata una tragedia, la devo pulire. Sempre un attimo. giorno senza parlare, una risposta che brucia in una nuvola. Ho visto il mondo cambiare, ma per fortuna nessuno stava pensando a noi. Ancora un attimo per prenderti. Ancora un attimo per prenderti. È sempre un attimo. È sempre un attimo. È sempre un attimo. È sempre un attimo. E non è più come quando ogni parola era nuova ed ogni suono era libero. Ok, grazie ragazzi. Grazie, me l'avete fatta pulire, avete avuto pure la pazienza del primo errore. Grazie. E ora potrei fare un'altra canzone da questo disco nuovo. L'ho scritta quando ci fu la tragedia di Lampedusa 4 anni fa e non ho neanche, ero talmente infervorato da quello che vedevo che stava succedendo e non potevo immaginare che saremmo arrivati a eleggere col 60% di gradimento della gente che dice chiudiamo i porti, non potevo neanche immaginare. Però diciamo ero già abbastanza incazzato e quindi avevo fatto una canzone con un accordo solo, tipo Neil Young, mi interessava solo fare la canzone entro 20 minuti. Però nel disco, se vi capita di sentirla, si chiama Il Re di Lampedusa, se vi capita di sentirla è molto bella, c'è il lavoro di 4 musicisti fantastici, dura 7 minuti, c'è un'orchestrazione di cui sono molto orgoglioso perché sarà fatta da musicisti veramente molto bravi con cui ho lavorato al disco e secondo me vale la pena magari ascoltarla gratis su internet, su Instagram. Posso metterla su Instagram, 7 videini di 1 minuto. Sono 10 posti comodi sul mio aeroplano. C'è una ragazza preparata sopra il mio aeroplano. E non c'è spazio per filosofi sul mio aeroplano. Ho tutto il mondo dietro l'angolo col mio aeroplano. Se c'è una guerra in 1 minuto, sono già lontano. Posto di lavoro solo per mangiare, per non finire sottoterra, ho attraversato il mare, non mi ricordo quale nome ho dato per entrare, i finanzieri sono tutti lì per controllare, con una borsa di regali mi vedrai tornare. Vale 1000 vite. Ancora credi che una vita vale 1000 vite. Ancora credi che una vita vale 1000 vite. Ancora credi che una vita vale 1000 vite. di tu. Atmosfera e faccio forse, bella questa incertezza, e faccio forse, capito? Gli americani non avrebbero mai fatto una cosa. And now I think I'm playing, capito? E noi siamo un po' più simpatici così. Tranne Crosby, che è bravo e buono, e gli facciamo gli auguri. Auguri Crosby. Questa è una canzone che è sempre, tanto ormai mi è presa sta direzione qua. Ci sta il batterista con cui lavoro da tantissimi anni, dal 2000, che ha appunto fumato, ed eravamo in una situazione che mi ha fatto: la devi scrivere una canzone sulle cameriere, perché tu stai in fissa con le cameriere. E io praticamente lo guardai in uno stato simile, sì, così, questo è il dialogo che vi ho riportato. E poi a quel punto la dovevo scrivere, perché gli avevo detto, questa si chiama Il pilota e la cameriera. È impossibile quasi farla senza un pianista che io mi porto in giro, che è veramente bravissimo, si chiama Fabio Marchiori, è livornese, suona anche un Bobo Rondelli, farò finta che è qui con me, no, di qua, è di qua normalmente, perché lo devo guardare di più, capito, di qua è più facile, cioè mi terrorizza talmente tanto quei capotasti, perché calcolate che se io sbaglio il capotasto, che succede abbastanza spesso, io faccio tutta l'intro della canzone in una tonalità e poi lui entra nell'altra, quindi succede un disastro, quindi io ce l'ho sempre qua che mi fa oppure mi fa ancora più antipatico sul pianoforte la nota ding ding, senti che sto parlando, io sento da qui ding ding, come la faccio, non è e la rimetto con l'altra. Da vecchi credo che vivremo insieme in un solo carica. Mykonos. Stato un attimo e ci sei cascato. Niente di nuovo come respirare, a parte rimanere lucido, non c'è motivo per non ritornare. Con le sue gambe lunghe fino al cielo e le sue mani da lavoratrice, se vuoi sfuggirle corri sulla luna, qualche santo che ti benedice. Ed è già tutto chiaro prima ancora di iniziare. Naturalmente non ti devi innamorare. della stirpe delle cameriere, è certamente l'ultima trovata. Se la giornata è lunga e nera, con uno sguardo te l'ha illuminata, ed è già tutto chiaro prima ancora di iniziare. Sicuramente non ti devi innamorare, troppa compagnia, abbiamo da bere, da mangiare, un po' d'amore e tanto da fumare, e tanto da ascoltare. Faccio un altro brano da questo disco qui, che è quello, diciamo, che faccio sempre nei concerti, perché è un altro di quelli che... Perché io ho anche un repertorio abbastanza rock and roll, ma chiaramente con la chitarra acustica è difficile farlo. Faccio i brani che mi piacciono con la chitarra acustica. Una cosa di questo brano qua, che effettivamente non ho quasi mai detto, è che anche questo, e mi viene in mente proprio adesso, viene da una cover di David Crosby, perché io mi diverto a fare delle cover di dei brani che mi piacciono cambiando completamente la musica e a volte anche il tempo. E praticamente avevo fatto una cover di questo brano che si chiama Long Time Gone, sempre con Crosby, Stills & Nash, che lui scrive quando ammazzano Bob Kennedy, e il testo è tipo: ci è voluto tanto per arrivare fino a qui, e ora sembra che questo tempo sia stato perso. Però poi finisce con la nota di speranza: l'ora più buia è proprio prima dell'alba, solo che non aveva specificato la durata, e quest'ora più buia è più o meno dal 70 a oggi, mi pare che sta durando. E facevo queste cover di Long Time Gone in questo modo qua. It's been a long time coming, going to be a long time gone, and it appears to be alone, appears to be a long time before the dawn. E da questa cover qua, a un certo punto, ho fatto il pezzo che vi sto per far ascoltare, che si chiama Non sei nessuno, perché ho detto: però una figata sto riff, che era in Si, perché è un riff. Se ce la faccio, perché ho dei problemi con il capodasto, che c'è un capodasto del no. Ho detto non lo spreco e ci ho messo sopra questo testo dedicato a quando Ulisse sta nella grotta di Polifemo, è fottuto, non può uscire e sta in una situazione dalla quale non si può uscire, e ha l'intuizione di fingersi una pecora, mettersi sotto delle pecore, dire che non esiste. Mi è sempre sembrata geniale questa idea che in qualche modo noi possiamo innanzitutto liberarci dall'oppressione della società scomparendo da questo tipo di ipnosi collettiva che la società ci impone. Cioè, noi diventiamo pecore che non ci facciamo vedere, anche perché non ci dobbiamo sempre ricordare che Facebook veramente, e non è una paranoia 5 stelle, perché veramente l'unica diciamo proprio la cosa più lontana da me dell'universo, quel tipo di atteggiamento là, però effettivamente è un'invenzione della CIA, cioè regà, cioè è evidente, quello è un coglione. L'avete visto? Cioè, quello a un certo punto ha fatto una cosa di foto nel college per poter dare rating ai pischelle e potergli chiedere il telefono o il nome in alfabetico. Questo ha fatto. Poi è arrivato uno tipo in un bar probabilmente lì, così, che gli ha fatto una bellissima idea. Dai regà, no, è vero, cioè regà, pensateci bene, cioè questo adesso noi siamo tutti tipo che cosa ha detto su Facebook, dai regà, sono male. Una volta l'italiano medio se la nasconde, ma lei è quello che c'ha quei 6 bar? No, non so io. Cioè, adesso tutti quanti, se vogliamo pubblicare tutto quello che facciamo, dai, è una roba assurda, veramente. E quindi questa è Non sei nessuno, che va letta esattamente al contrario di quello che dice. Non sei nessuno. Non sei nessuno, un occhio solo ti sta guardando mentre stai suonando, ti stai masturbando, non sei nessuno. Dove sono andati tutti i tuoi amici, tutti i tuoi amanti? Dove sono andati tutti i tuoi alleati, tutti i tuoi contanti? Sono tutti quanti chiusi dentro l'occhio e mentre ti salutano non sei nessuno. I presidenti dormono, si sentono al sicuro, secondo le statistiche non c'è futuro. Un occhio solo ti sta guardando mentre stai guardando. A Roma dicono che più sei grande e più fa male quando ti svegli e sei in mutande. Statistiche, non c'è futuro. Questo è un pezzo che normalmente faccio alla fine dei concerti, però adesso lo faccio adesso perché c'è questo sottofondo che mi ispira. Poi un altro dei vantaggi enormi di avere un pubblico piccolo, a parte è che vedi il meglio della gente, perché quando hai un pubblico, a me mi è capitato nella mia vita un periodo in cui avevo un pubblico grande, e ti incazzavi perché vedevi il peggio della gente, cioè la gente quando tu c'hai un minimo di notorietà si avvicina a te con uno sguardo famelico e tragico, e quindi tu cominci a vedere tutta gente intorno a te che ti dice cazzate, ciao come stai, ti ho visto, come stai, ti ho visto, così, no? E tu stai lì con un atteggiamento tipo, porca miseria, che non pensavo. Ti cambia tutta la prospettiva. Ho un ricordo bruttissimo del periodo in cui, quei 2 anni e mezzo in cui sono stato leggermente conosciuto a livello nazionale, cioè è stato un periodo di merda. Scendere in una situazione di pubblico più piccolo è bellissima, perché la gente che c'è normalmente è tutta che ci vuole essere, quindi è gente simpatica che sei tu che ti dice, ah, ti ho visto a te però a quella libreria, e quindi è molto meglio. Però ovviamente ci sta, diciamo, lo svantaggio che tu ti rendi conto che fai certe canzoni e quelle povere persone le hanno già sentite 75 volte, perché poi ci sono alcuni che vengono sempre, cioè io, ci sono alcuni a Roma che vengono sempre, ci sono 2 tipi che venivano ai concerti di Electro Joyce, mi ricordo nel 96, e ci sono sempre, cioè sono 2 amici, 2 grandi amici, perché che cazzo, sono sempre amici da 96, poi vengono ogni volta, oh lì, come va, stasera è stato bello, dobbiamo tornare a casa. E vi giuro, tra l'altro io non so neanche come si chiamano, perché tale la familiarità che li ho sempre visti, che sono sempre venuti con la stessa scena, tipo ciao Fili, grande, nel tempo poi io loro li vedo invecchiatissimi, chiaramente io dal mio punto di vista dico ammazza quanto si sono invecchiati, però perché non mi rendo conto io. È la stessa cosa che diranno loro l'altra parte, oh, sono invecchiato. Però tu praticamente fai la canzone 700 volte per le stesse persone, e questo ti costringe a avere un atteggiamento, diciamo, jazzistico nei confronti della canzone, o comunque sincero nei confronti della canzone, cioè non la rifai mai come l'hai fatta 5 minuti prima, cioè la fai sempre in una maniera diversa, perché ti stai vergognando fondamentalmente, stai pensando, ti rendi conto, mo quello sta a sentire sto pezzo un'altra volta, ha sentito. E questi sono i vantaggi. La canzone questa qui l'ho scritta dedicandola a Bruno Lauzi, e racconto questo episodio, tanto anche questo probabilmente i miei amici ovviamente lo sanno a memoria, però magari c'è qualcuno che può essere divertente. Io stavo in questo, diciamo, ufficio editoriale a Milano della Ricordi, ho detto, ho scritto una canzone pensando a Bruno Lauzi, al fatto che è stato un grande fondatore della storia della musica leggera, forse è stato il più importante, diciamo, uomo che ha generato, diciamo, ha messo in moto dei meccanismi per cui si è creata la musica leggera italiana contemporanea, però aveva delle posizioni sempre molto controcorrente, non era minimamente vicino agli ambienti socialisti, comunisti, aveva, durante gli anni 70 aveva denunciato l'ipocrisia di personaggi che non erano minimamente vicini alla sinistra, però andavano a tutti i festival dell'Unità per fare successo. Perché poi anche i grandissimi artisti hanno degli scheletri nell'armadio, e Bruno Lauzi era stato uno che comunque aveva avuto il coraggio di raccontare questi scheletri nell'armadio, col risultato di essere quasi bandito da qualsiasi forma di memoria. Questo editore poi mi ha messo in contatto con lui, gli aveva fatto ascoltare, diciamo, quello che io avevo scritto, e lui aveva accettato di cantare sulla canzone, che è una delle ultime cose che ha registrato. E questa canzone si chiama La memoria libera, e gliela dedico perché è un uomo veramente fico. Come fossero bricioli, hai spazzato via gli anni, la memoria è libera, è una storia scontata. Hai cambiato nome, cambiato strada. Nell'immagine fissa il sorriso è mancato, ti hanno allontanato la testa e il cuore. Ti hanno allontanato la testa e il cuore. E se non dormirai, se l'ascolterai, ti convincerai. vincerà. E se non dormirai, se l'ascolterai, scoprirai che la memoria libera. Sala d'attesa, hai baciato i grandi, hai spazzato via gli anni come fossero briciole, come fossero briciole, hai spazzato via gli anni. E se non dormirai, se la ascolterai, ti convincerà. E se non dormirai, se la ascolterai, scoprirai che la memoria libera. Memoria libera. La memoria libera. La memoria libera. La tua libertà, ed è per questo che tu ritornerai. Grazie. Grazie. Ok, ho quasi finito. Potrei fare un'altra cover pazza, pazzissima, che sbaglierò quasi sicuramente. Vorrei fare una cover di questa cantante mostruosa là, che se n'è andata oggi, ieri, Aretha Franklin, che insomma penso tutti quanti amiamo tantissimo, però ho delle difficoltà vocali, oltre che strumentistiche. Avrei voluto fare Natural Woman, però purtroppo la imparerò, viene meglio con il pianoforte, con il mio amico pianista, credo che amico non se la faremo spesso, però visto che diciamo di pezzi soul, che è la mia musica preferita sotto certi aspetti, ne so solo due effettivamente, questo sgangheratamente e un altro classicone che potrei fare dopo. pezzo incredibile di Stevie Wonder, diciamo incredibilmente attuale, perché comunque è un pezzo in cui lui fa capire che comunque, per quanto il mondo girando vada nella direzione sempre di merda, tu puoi sempre continuare a migliorare, sempre continuare a migliorare. Se tu lo guardi Stevie Wonder oggi, come cazzo sta? Cioè, Stevie Wonder ha iniziato negli anni 50, un bambinetto così, con l'armonica e il pianoforte, a cannone a questo livello. Se guardate la sua produzione, sia di concerti che di dischi, e lo vedete oggi, che c'ha anche lui, penso, più o meno l'età di Arita, nel senso c'era tra i 75 e gli 80 anni, cioè se concerti che fa oggi, cioè è quello, diciamo, che se c'è una persona da prendere esempio su come si vive bene la propria vita, nonostante le difficoltà, è Stevie Wonder. E questa canzone mi sembra che ci abbia al suo interno una specie di formula per poter vivere in questo modo qua. E si chiama Higher Ground. Altro classicone, ma a questo punto lo faccio, me lo invento mo. Potrei fare la canzone alla quale la appiccico normalmente, che sta sempre nel primo disco che ho fatto, infatti solo tre, quindi è facilissimo ricostruire anche per me. Cioè, dico, qual era quella, il primo? Che si chiama Solo gli stupidi si muovono veloci, che è una delle mie principali aspettative è creare un proverbio. Sarebbe la cosa più, è la cosa più duratura che un artista può fare, nel senso, crei un proverbio e fatta. Non ci guadagni, però, sti cazzi. Non sanno che sei te, sti cazzi, tanto che... E questo è Solo gli stupidi si muovono veloci, e diciamo ci ho fatto anche il pezzo. Poi ne ho pensati altri due che vi propongo, che sono uno, il riposo è la parte più importante del lavoro. E l'altro è le emozioni non sono mai dove le cerchi. Pensate, cerchi, questi sono belli. Però mi hanno detto troppo raffinati come proverbi, la stessa cosa che mi dicono le canzoni. Guarda, troppo raffinato. Perché giustamente dobbiamo dare per scontato che la gente non lo è. Invece non è vero. Sei mi rende libero, mi fa pensare e non mi fa pensare. Come sei mi lascia immobile, mi fa comprare e non mi fa comprare. Come sei confonde il limite, mi sento migliore, ma non è così facile. Io mi fermo per guardare, tu rimani dove sei. Solo gli stupidi si muovono veloci. Solo gli stupidi si muovono. Sei solo un'altra scatola, ma non ho fretta e non mi va di entrare, e non mi va di entrare, e non mi va di entrare. Io mi fermo per guardare, tu rimani dove sei. Solo gli stupidi si muovono veloci. Solo gli stupidi si muovono veloci. Io mi fermo per guardare, tu rimani dove sei. Solo gli stupidi si muovono veloci. Solo gli stupidi si muovono veloci. Just as long as you stand by. just as long as you stand, stand by. Just as long as you stand, stand by. Grazie. Faccio oggettivamente un'ultima canzone perché mi sembra un momento buono, quindi non vorrei rovinare questa situazione positiva. E poi comunque effettivamente c'è questa specie di tomba che mi sta ipnotizzando. Questa tomba etrusca. Rimarrò qui chiaramente adesso questa sera. Cioè è chiaro che è una cosa tipo Dead Man. Cioè io adesso sto qui, sono convinto che sto facendo il concerto, poi voi piano piano scomparite, appaiono delle persone del mio passato, tutta una roba del genere, e poi dopo là ci sta un elefante d'avorio con sopra una palla blu. Cioè, capito? Cioè, nessuna religione della terra aveva ancora capito. Ci stavano arrivando, c'erano dei disegni nel Vaticano da qualche parte, il Dalai Lama ogni tanto se lo sognava, però stavamo ancora niente, la religione eravamo una merda. Ti trovi questo, come devi dire? Ora dimmi la parola. Quale parola? Questa cosa che l'elefante che parla italiano, capito? E parla tipo solo in italiano, cioè tipo ci muoiono miliardi di persone, vanno lì dall'India, dalle cose, quello. Dimmi la parola che mi devi dire. Italiano perfetto, con lezione moderno. Vabbè, detta questa cazzata, faccio quest'ultimo brano che si chiama La Rivoluzione, che chiude questo disco nuovo, quindi non si dica che non ho fatto in qualche modo anche promozione in qualche modo, perché ho detto 3 volte la parola disco nuovo, che si intitola La Testa e il Cuore, sta su Spotify gratis. Ho un aneddoto su questa canzone che può durare dai 15 ai 16 minuti, però adesso ve lo evito questa sera. A volte sei bellissima, a volte mi fai un po' paura, come la regina di alabastro nella mia scacchiera, ma il gioco è ancora aperto. Possiamo andare al cinema, se esiste ancora un cinema. Oggi non penso più a domani, come facevo ieri. Ho visto troppi inutili racconti senza fine. Possiamo stare meglio, scordandoci di vincere, perché chi ha vinto tutto dorme sulle spine. Costellazione che non vedevo prima, una giornata lunga e piena di lavoro, dividersi le cose, il pane, il vino e il sale, lasciamolo ai dannati il loro oro. La rivoluzione. Sei bellissima, a volte mi fai un po' paura, come la regina di alabastro della mia scacchiera, ma il gioco è ancora aperto, possiamo andare al cinema, se esiste ancora un cinema. Grazie ragazzi. Bravo. Bella, grazie Simone, grazie per il concerto, fantastici, grazie di essere rimasti qua. Vi ringrazio. Faccio un'altra cover finale di Buon Augurio, perché siete, comunque mi pare che purtroppo state abbastanza bene. Questa la faccio anche spesso, la faccio da quando è scomparso quest'altro cantautore che vi consiglio sempre, che è mio fratello, che mi fa: metti una cosa dopo il 1985 per favore. Però ho capito, io sento anche moltissime cose contemporanee, per esempio cito sempre Sufjan Stevens, no? Un autore incredibile, contemporaneo americano. Cioè, ci sono delle cose contemporanee 5-6 che mi piacciono, però questo qui invece è un cantautore degli anni 70, scozzese, si chiama John Martin, un uomo di una sincerità e di una profondità che anche lui è uno che ha, diciamo, veramente, cioè, se ne è sempre fregato di qualsiasi tipo di grande successo, ha sempre vissuto la sua vita molto coerentemente, ha sempre fatto dischi molto sperimentali, appena gli dicevano che era un bello disco perché aveva un sound, lui dopo lo faceva completamente diverso. C'è questo disco che lui ha fatto poco dopo la morte di Nick Drake, perché lui era molto amico di Nick Drake, quest'altro grande cantautore morto molto giovane, che ha fatto dei dischi fantastici, se vi capita di sentirli. In questo disco ci sta questo brano, che a me è sempre piaciuto tantissimo, molto semplice, che dice: io non voglio saperne del male, voglio sapere solo di amore, tanto comunque sto aspettando che gli aerei cadano, le città crollino, e c'è questo mondo che ci ha reso, non riusciamo più a ascoltarci tra di noi, sembriamo completamente ipnotizzati, non me ne frega un cazzo, io non ci voglio pensare solo al lato buono delle cose. E si chiama I Don't Wanna Know. Hey. Ho sempre pensato, questa sarebbe perfetta su una spiaggetta, però questa sera capisco che effettivamente pure nell'uliveto c'è stata la grazie ragazzi, la paura. Per colpa della marijuana non mi ricordo nessun altro pezzo. Non ricordo più niente. Grazie mille. Grazie. Non li so più.